non ci cade il ricordo. Rivolta sul mondo, il mondo tornò, rotola sotto, diretti dai padroni, orsi, sornioni, addormentati da tremero da sul letto. Fantasma della libertà.